So high come Afroman, Aleman, col mic big come Pan. Rappo lento, bizarre, sul beat tricks come Sweet Zoom in Bam. Rubo la gasolina Daddy Yankee, sono come lo Yankee, sopravvivo in mezzo agli hooligans. Dimmi un po' cosa ne pensi, spingo i pop in tutti i sensi, un tot senza compensi. Fumando skunk, vengo da Genova, non ho pretese, fotton di regola per arrivare a fine mese. Gli altri tutti a pecora, il culo si sgretola, come spaccato da un senegalese. Se un pacco ventola, non esisti Legolas, ti brucerei come le chiese. Tiro una sventola, vengo qua, prendo la città come a Roma libanese. Ma che cazzate inventi, hai fatto un test a testa, hai buscato, dici m'hanno piccato in venti. Ti riprendi, ti riprendi, ti rigiri, giri e menti, ti ritiri, non mi raggiri, non so se comprendi. Sono un lupo cattivo, Wendy, non ti difendi, la merda ingoia, ma è passivo, sempre attivo, non rammenti. Porto in testa i frammenti di questa vita troia. Non ne posso più, tutti eroi da tastiera, spegni quella TV. C'è di strada, la gente vera, non ne posso più, tutti eroi da tastiera, tutti su YouTube, ma li vedi, hanno 18 anni appena. Sogno di farmi una nomina, ho scalato i monti, è la passione che domina. Non siete pronti, avete sbagliato i conti, voi soldi, togli il new era, usalo per l'elemosina. Ringhio sul beat, ringhio col mic, spingo real shit, vinco Real Madrid. Salgono le quote, senti che dote bitch, la smetterò quando Coyote prenderà BB. Quindi mai mi sbatto, sai, weed, poi volo via. Anni di lì, capirai, qui il rap è cosa mia. Vai via, è un via vai, resti in avaria. Fuggi, vuoi la borsa Gucci o Gucci Sofia? Un infame lo fiuto, come un cane lupo. Devi mangiarne pane, non sei l'altezza pupo. Sei un cane, Pluto, porto rime insane, perché normali mi rifiuto. Mi incroci, cammina dritto, o ti sputo, non discuto. Mi sei scaduto, ora è conflitto. Ti do il benvenuto, un minuto resti muto. Io sei muto, è nel senso che cambio, mica sto zitto. Livello hard, vedo, faccio nei video col far, due spiccioli in tasca, nei video col supercar. Sei in terza categoria, ti credi Benzema? È una strategia perché fai ridere Remy Gaillard. Non ne posso più, tutti eroi da tastiera, spegni quella tira.